se volete completare l'incipit di Andrea Denari, di Andrea Vitali per i denari. Sì che l'abbiamo colto in castagna, commissario. Beh, Carbone, prontissimo. Ma in arrivo, come si fa? Carbone, nome, una garanzia. Dottor colesterolo, dottora Volei. Dottora Volei. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu, l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Allora, forse proprio per questo motivo dovremmo guidarla, se ci ringiovanisce un po', una bella torpedo blu non sarebbe male. Sicuramente non passerei inosservata alla guida di quest'auto. Temo però che, pur trovandone una, non si tratterebbe di un'auto molto ecologica. Insomma, non potrei approfittare degli incentivi che, l'avete sentito, sono stati introdotti dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Partiamo da qui, oggi, a Cuore e Denari, guido da sola. Nicoletta non c'è, la salutiamo però con grande affetto, per una puntata che dedicheremo in gran parte all'auto. Torneremo a spiegarvi questi incentivi che partono la settimana prossima, il 6 maggio, ma daremo anche un'occhiata a questo mercato così importante per l'Italia, alle immatricolazioni. Tra l'altro, proprio questa sera il Ministero dei Trasporti comunica il dato sulle vendite di aprile, vedremo se c'è qualche altro segnale di ripresa, il tutto come sempre rispondendo alle vostre domande. Mi accompagna oggi e resta a bordo della torpedo blu di Cuore e Denari Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, che saluto. Direttore, buongiorno e benvenuto al nostro programma. Grazie, buongiorno a tutti. E allora, intanto, ai nostri ascoltatori, cominciate a chiamarci all'800 24 00 24. Vorreste cambiare auto oppure non l'avete, ma l'acquisto si è a questo punto reso necessario? Ne state cercando una nuova, una usata? Qual è il budget a vostra disposizione? Siete a conoscenza di questi incentivi che partono la settimana prossima? Sapete come approfittarne? Allora, oltre a chiamarci, scriveteci se volete anche un sms al 349 238 6666 oppure su Facebook o Twitter. Noi oggi però parliamo anche con chi di auto si occupa per lavoro dall'altra parte della vetrina, i concessionari che le auto ce le propongono, ce le mostrano e poi potenzialmente, possibilmente ce le vendono. Do il benvenuto anche a Filippo Pavan Bernatti, presidente di Federauto, federazione che rappresenta i concessionari di tutti i marchi commercializzati in Italia di auto, veicoli commerciali, camion e autobus, una organizzazione che ha già avuto modo di dire la sua su questo nuovo pacchetto di incentivi, e sentiremo direttamente dal presidente qual è questa considerazione che non è totalmente positiva. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro parleremo anche, se i nostri ascoltatori lo vorranno, con delle domande del ruolo del concessionario, non solo in questa operazione incentivi appunto per l'acquisto di auto ecologiche, ma anche come dire, quale deve essere la relazione che si deve instaurare tra un cliente e un concessionario per l'acquisto di un'auto, perché è naturalmente molto importante anche questo aspetto. È una questione di fiducia. Io vi conosco, siete tutti ladri. Ogni volta che aprite bocca aumentate il prezzo. Sì, è vero. Sono io che devo parlare. Io le dico cosa voglio e cosa sono disposto a pagare. Lei ha seguito il mio ragionamento? Come no? Le va pennello, eh? Come te la senti, caro? Ah, me la sento bene. Ah, è scicchissimo. Altro che? Tagliata su misura. Una spesa così importante come quella dell'auto non va certo fatta alla leggera, e nella decisione ha un peso anche il modo in cui si pone la persona che davanti a noi. Deve essere una persona che merita la nostra fiducia, della fiducia che anche la nostra postura e il nostro modo di porci può trasmettere. Parleremo di questo anche dopo il GR delle 12 con la dottoressa Anna Guglielmi, esperta di linguaggio non verbale. Visto che la fiducia è un fattore essenziale nelle questioni di cuore così come in quelle di denari, voi chiamateci per prenotare il vostro intervento anche su questo tema e scriveteci: da chi comprereste qualsiasi cosa e da chi invece invece non vi fareste mai convincere a comprare una macchina. 800 24 0024 per le chiamate in diretta, o in alternativa scriveteci al 349 238 6666. Torniamo però subito ai nostri incentivi, perché direttore Pellegrini, Gianluca Pellegrini, il direttore di Quattro Ruote, lo ripresento di nuovo. Già gli ascoltatori stanno partendo con le loro domande. Devo cambiare auto, scrive un ascoltatore che non si firma, mi serve per lavoro, ma non so niente di questi incentivi. Spiegate bene, grazie. E allora direi di fare subito il punto sull'iniziativa del governo. Come funziona, quanti soldi ci sono sul piatto, come si accede come privati, e poi distingueremo anche l'accesso a questi incentivi tra privati ed aziende. Direttore. Allora, chiariamo subito che questi incentivi riguardano soltanto le automobili ecologiche, anzi qualsiasi veicolo ecologico, ovvero automobili che abbiano emissioni inquinanti, la CO2, l'anidride carbonica, inferiore a 120 grammi per ogni chilometro percorso, quindi non sono incentivi a pioggia, riguardano soltanto delle auto ben specifiche. Il 50% degli incentivi viene riservato alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Per avere questo bonus, che al massimo è 2.000 euro, si è obbligati a rottamare un'auto di oltre 10 anni, il restante 50% di questi 31 milioni di euro, che in realtà poi diventano 63,4 perché l'anno scorso ci sono stati gli analoghi incentivi che non sono stati utilizzati completamente, sono invece riservati ai privati. Ecco, in questo caso ci sono altre due ulteriori categorie. La prima categoria è quella praticamente di fatto soltanto delle auto elettriche, in questo caso non c'è bisogno della rottamazione e il bonus è di ben 5.000 euro. La seconda categoria invece, che di fatto a questo punto comprende auto elettriche, GPL e metano, che sono le macchine che hanno il minor coefficiente di inquinamento, ovvero emissioni di CO2 non superiori a 90 grammi al chilometro, ecco, in questo caso si ottiene uno sconto, chiamiamolo così, un bonus di 4.000 euro. Ricordiamo che per i privati invece non hanno obbligo di rottamazione, ecco, che invece, diciamo, prima, esatto, è obbligatorio per le imprese e per chi ha. Benissimo. No, tra l'altro, direttore, lei ci parlava di questo bonus che vale 5.000 euro, che credo che sia la somma tra quello che mette a disposizione lo Stato e quello che però può fare anche la casa automobilistica, o mi sbaglio? È tutto integralmente il contributo che dà lo Stato? No, questo è soltanto il bonus che è stato stanziato dallo Stato, diciamo così, in realtà il Ministero dello Sviluppo Economico che l'ha stanziato. Quindi lo sconto non è alternativo, si può aggiungere a questo bonus statale. La casa può fare qualcos'altro anche per incentivare una compravendita in questo senso. Senza 5.000 euro, su generalmente che tipo di prezzo ha un'auto elettrica di media cilindrata come quella che può entrare nell'abitudine appunto di consumo di una famiglia normale? Il bonus di 5.000 euro onestamente sarà difficilmente richiedibile, perché stiamo parlando di macchine quasi esclusivamente elettriche, cioè emissioni di CO2 non superiori a 50 grammi al chilometro sono esclusivamente le macchine elettriche di fatto, quindi macchine che sul mercato italiano incidono veramente pochissimo. Abbiamo avuto qualche recente introduzione di macchine che vorrebbero puntare a un grande pubblico, per esempio faccio qualche nome, la BMW i3, ma sono comunque macchine che costano intorno ai 40.000 euro, Mitsubishi, il gruppo Nissan, anche loro fanno delle offerte abbastanza interessanti, comunque stiamo parlando di auto decisamente care. Molto probabilmente il grosso dell'utilizzo di questo bonus sarà nella categoria, diciamo, fino a 95 grammi al chilometro, perché si entra invece in un settore, diciamo così, più popolare, più abbordabile alla tasca media, diciamo così. Esatto, in questo caso il bonus è di 4.000 euro, però si inizia a parlare di macchine molto più normali, insomma macchina GPL, macchina metano, che in questo momento, in un momento di grande depressione del mercato, comunque continua a rappresentare sicuramente un fenomeno abbastanza positivo. Allora, abbiamo già detto prima che per questo pacchetto il Ministero dello Sviluppo Economico mette sul piatto 31,3 milioni di euro. Sono però in totale gli incentivi oltre 63 milioni, contando anche le risorse non utilizzate lo scorso anno. Vogliamo ricordare perché in quel caso quell'operazione, direttore, ebbe un insuccesso così importante? Ma intanto perché pochissimi di questi fondi erano riservati ai privati e poi soprattutto perché la maggior parte di questi bonus erano riservati alle aziende, ponendo però dei vincoli che le aziende non potevano rispettare. Il problema maggiore, e che comunque rimane anche adesso, è il fatto che le aziende, le pubbliche amministrazioni, comunque chi ha un'azienda, deve rottamare per forza, per ottenere questo bonus, un'auto con un'anzianità superiore ai 10 anni. Onestamente è molto difficile pensare che un'azienda abbia nel proprio parco auto delle automobili più vecchie di 10 anni, e quindi poi alla fine cosa è successo? Che non sono stati utilizzati tutti i fondi, che infatti adesso ritornano a galla aggiungendo ulteriore denaro a questa iniziativa. Tra l'altro è anche abbastanza curioso e originale che si diano questi incentivi alla pubblica amministrazione in un momento appunto di spending review in cui invece si chiede alla pubblica amministrazione di fare grandi sacrifici. Adesso non so se questa può sembrare un'osservazione banale, direttore, però si vendono le auto blu su eBay, si mettono a disposizione appunto le auto dello Stato in questo modo, poi d'altra parte si mettono sul campo incentivi di questo tipo per fare in modo che la pubblica amministrazione rinfreschi il proprio parco automobili. Per carità del cielo, ci sarà anche bisogno di avere, diciamo che qua lo spirito è di rinfrescare la tipologia, esatto, di auto che la pubblica amministrazione ha a disposizione, giusto? Proprio in un'ottica, esatto, di, come dire, attenzione ambientale. Anche perché l'amministrazione pubblica italiana non è che sia esattamente virtuosa da questo punto di vista, per una serie di per tanti motivi, la maggior parte di questi riguarda il budget a disposizione di queste auto. Il parco veicoli della nostra pubblica amministrazione è veramente antico, e questo significa che comunque adesso, per quanto poco possa fare un incentivo di questo genere, perché sicuramente farà poco, come vedremo poi in dettaglio, comunque perlomeno dare un segno di svecchiamento di un parco circolante che onestamente è molto anziano, ma questo vale per tutto, sia per la pubblica amministrazione che per il parco auto dei privati. L'Italia da questo punto di vista è molto indietro rispetto all'Europa. Ecco, diciamo che un piccolo segnale per una maggiore sensibilità ambientale lo Stato lo ha dato. Infatti il Ministero è stato molto chiaro, ha detto questo non è un'iniziativa di sostegno al settore, cosa che invece avrebbe potuto fare magari in altre modalità, ma è un segnale per rinnovare un parco di circolanti e per sottolineare una rinnovata sensibilità ambientale. 800 24 00 24, il numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori. È pronta Maria Teresa dalla provincia di Pavia. Prima però vorrei far esprimere qualche giudizio su questo nuovo pacchetto di incentivi al presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi, che nella sostanza ha ribadito un po' le stesse considerazioni del pacchetto dello scorso anno rispetto all'operazione dello scorso anno. Ve lo leggo un po' quello che dice e recita il comunicato stampa di Federauto diramato proprio in questi giorni. Nuovi ecoincentivi sono il porcellum dell'auto, che per i privati e le famiglie riguarderanno meno dell'1% del mercato. Presidente, eccoci di nuovo a noi, buongiorno ancora. Buongiorno a tutti. E allora, come mai non vi convince questa iniziativa, anche quest'anno? Ma guardi, allora, l'anno scorso avevamo fatto delle ipotesi su quello che sarebbe accaduto, adesso invece parliamo analizzando l'anno scorso, e quindi abbiamo una fotografia, ed è successo esattamente quello che avevamo previsto, e quindi i beni per le aziende sono rimasti, i fondi per le aziende sono rimasti inutilizzati, perché appunto c'è questo vincolo, bisogna avere nel parco auto una vettura con più di 10 anni. Invece per i privati l'anno scorso, voglio ricordarlo, sono durati 4 ore. No? Quindi quest'anno abbiamo riproposto, hanno riproposto lo stesso format, no? E quindi hanno solo rimpolpato un pochettino quello che è previsto per i privati. E voglio ricordarlo, per le elettriche sono previsti 9,5 milioni di euro, per le ibride GPL metano sotto i 95 grammi al chilometro di CO2 22 milioni di euro, per le vetture aziendali sono previste 31 milioni di euro che devono acquistare per una vettura con meno di, che emetta meno di 120 di CO2. Allora, cosa succederà? Le aziende rimarranno lì, questi 30 milioni non saranno spesi e ce li ritroveremo l'anno prossimo. I privati, il supporto noi stimiamo che durerà dai 3 ai 5 giorni. Quindi, allora noi contestiamo sia la misura, perché sono briciole, ripeto, il mercato auto in Italia fattura 70 miliardi di euro e impiega 1.200.000 persone, quindi non si può affrontare il nostro comparto con questo tipo di misure. Qui mi fa però subito controreplicare, perché lei sa benissimo che negli ultimi anni comunque il settore dell'auto è stato molto incentivato rispetto a tanti altri settori commerciali, industriali. Ecco. Ma per carità di Dio, ma è stato molto incentivato per i numeri che rappresenta. Infatti se si vuole far ripartire il prodotto interno lordo, se si vuole far ripartire anche il mondo del lavoro, il nostro è un asset fondamentale. E invece quello che ci tenevo a dire è che il Ministero, quando vogliamo buttare via questi 120 milioni di euro in tre anni per dare un segnale al pubblico di sensibilità per i prodotti ecologici è un obiettivo fallito, perché stiamo parlando dello 0,81% del mercato. Chiaro. Quindi non si cambia assolutamente niente, si sprecano denari pubblici. E concludo dicendo, io non mi ricordo mai che una categoria non voglia dei denari pubblici, no? Quindi, è evidente. Se noi che poi siamo sul front line, quindi non è che i soldi vanno in tasca a noi, però siamo i primi beneficiari perché aumentiamo i fatturati, se noi segnaliamo che sono soldi buttati via, che si potrebbero dare agli esodati, alla ricerca sul cancro o altre cose meritorie, credo che debba essere preso in considerazione. Presidente, la sua posizione è molto chiara, l'ha spiegata l'anno scorso, quest'anno l'ha ribadita. Detto questo, poi martedì arriveranno presso i vostri associati naturalmente delle persone che vorranno capire come si fa ad ottenere questi soldi che lo Stato mette a disposizione, che il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione. Quindi adesso faremo anche un piccolo vademecum per chi invece questo incentivo lo vuole prendere e ne vuole approfittare. Vi faccio subito ascoltare, lo dico anche a Gianluca Pellegrini, chiaramente essendo una donna sapete bene che per definizione di auto non so nulla, allora mi dovete aiutare quanto più possibile questa mattina. Maria Teresa dalla provincia di Pavia però arriva a darmi manforte. Buongiorno Maria Teresa, benvenuta. Buongiorno a lei, grazie per questa possibilità. Grazie a lei. Senta, noi abbiamo fatto, io e mio marito, un contratto per l'acquisto di una Golf metano benzina il 13 aprile. Dunque, l'emissione di CO2 per la benzina è 124 e per il gas metano 94. Naturalmente si va soprattutto a metano. La partenza ci hanno detto che a benzina e poi l'auto funziona a metano. E la Golf 1.4 di cilindrata punto metano rientro negli incentivi? Ha già finalizzato il contratto? Ce la consegneranno a giugno, però il contratto è firmato. Sì. Sentiamo un po' se in questo periodo di interregno come dire le dà in ogni caso la facoltà di ottenere l'incentivo fiscale. Direttore Pellegrini, vengo da lei intanto. La Golf a metano sicuramente fa parte della categoria quella più incentivata, ovvero quelle fino a 95 grammi al chilometro, quindi risulta incentivata per 4.000 euro. Il tema è capire adesso se con i tempi ci siamo. Purtroppo sì. Questo bisognerebbe chiederlo a Pavan Bernard. E allora andiamo da lui. Più informato, certo, per quanto riguarda le tecnicalità. Esatto, presidente Pavan Bernacchi. Allora, la nostra Maria Teresa ha già firmato un contratto, ma l'auto le viene materialmente consegnata a giugno. Allora, purtroppo non rientra perché se stiamo a quello che prevede la legge, vale per i contratti fatti dal 6 maggio in poi, per cui rientrano solo i contratti fatti da 6 maggio in poi. Maria Teresa, purtroppo le dobbiamo dare questa brutta notizia, chiaramente ormai il contratto non è che si può cancellare. Erano nell'aria tra l'altro, presidente, questi incentivi, perché io non mi ricordo di averne sentito parlare in settimane passate, per cui per capire anche chi si trova adesso nella condizione di Maria Teresa, se deve solamente mangiarsi gomiti oppure non so. Allora le dico, erano nell'aria perché sono incentivi previsti per il 2013, 2014, 2015, aspettavamo le regole del 2014 ma sapevamo già tutti che c'erano. Il problema è la signora anche si mette un po' il cuore in pace perché è difficilissimo accedere a questo incentivo, diciamo che potranno accedere a questo incentivo 5 clienti per ogni concessionario, per cui nel caso della signora 11.000 casi. Nel senso che è già stata fatta una distribuzione teorica di questo tipo, oltre il quinto cliente non sarà data la possibilità al medesimo concessionario di garantire l'incentivo? No, perché funziona così, praticamente. Non me lo dica Pavan Bernacchi, perché adesso andiamo a sentire la pubblicità, sentiamo i mercati finanziari, eccolo qua, ovviamente abbiamo sempre il nostro omino che ce lo ricorda e poi tutte le technicality, come le ha chiamate Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, appunto ce le faremo rispiegare da Pavan Bernacchi per capire come mai questo meccanismo è così e complesso, però anche lì, Ministero, se per il secondo anno ci sono gli stessi problemi, ma voglio dire, certo che siamo veramente in gamba noi nel essere, nell'insistere nelle cose che non funzionano. Detto questo, abbiamo fatto ovviamente la polemica sterile ed inutile, adesso sentiamo cosa succede oggi in borsa. Cuore e denari. Sono un topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. Se la ridono in regia questa mattina, sono molto contenta che Rudy, che Pietro Lacorte si stiano divertendo con Paolo Conte e la Topolino Amaranto. Detto questo, noi torniamo ai nostri incentivi per chi vuole rinfrescare il parco auto, e qui naturalmente in questo caso parliamo di aziende o di pubblica amministrazione, o chi invece, se parliamo di singoli individui e famiglie, vuole cambiare la propria auto, comprarne una ecologica. Lo Stato finanzia parzialmente questa operazione con degli incentivi che possono arrivare anche fino a 5.000 euro. Detto questo, però, ci sono molte contestazioni, soprattutto da parte dell'associazione che rappresenta i concessionari dei marchi commercializzati in Italia di auto, veicoli commerciali, industriali, autobus, cioè Federauto, perché il presidente Pavan Bernacchi ce lo ha confermato poco fa, adesso lo risentiremo, dice le risorse sono molto ridotte e soprattutto per le aziende le condizioni di accesso sono praticamente impossibili, addirittura dice le partite IVA per accedervi hanno l'obbligo di rottamare un autoveicolo di almeno 10 anni, e quindi sono altri soldi che comunque si devono tirar fuori e che in questo momento magari un lavoratore autonomo non ha. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Adesso però ne spiegheremo nel dettaglio come si effettua l'operazione, una volta che si ha ovviamente individuato il mezzo che si vuole acquistare, come si fa per ottenere questo incentivo. Sentiamo i nostri ascoltatori, chi era arrivato per prima. Andiamo da Antonio da Foggia. Antonio, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. La mia domanda è secca. Innanzitutto sono un privato, volevo, ho intenzione di acquistare una Punto Metano, chiaramente nuova, dove il valore è di circa 14.000 euro. Sì. Volevo chiedere, questo incentivo di 4.000 è secco, cioè praticamente 14 meno 4, esatto, quindi la paga di 10, oppure c'è un limite di valore dell'auto, certo, se costa. Domanda pertinente, Antonio, che noi giriamo di nuovo al nostro presidente dei concessionari, Pavan Bernacchi. Poi, grazie alla domanda di Antonio, andremo alle modalità per ottenere l'incentivo. Beh, la risposta è secca. Allora, ci sono tre tipi di contributi, sono contributi massimi, 5.000 euro per le elettriche, 4.000 euro per il caso di Antonio e 2.000 euro per le auto aziendali. Ricordo che, per esempio, di 5.000 metà sono a carico dello Stato, metà sono a carico delle case costruttrici e dei concessionari. Quindi anche dei 4.000, 2.000 sono a carico dei concessionari e 2.000 sono a carico... Allora mi ricordavo, ecco perché avevo fatto prima la domanda a Pellegrini sul fatto che, esatto, appunto il contributo fosse scisso in due, tra virgolette. Ed è un contributo massimo, così prevede sempre la nota del Ministero. E quindi ad Antonio, insomma, nel momento in cui va dal suo concessionario di fiducia, stipula questo contratto per l'acquisto di questo appunto, nel contratto sarà evidenziato che il valore dell'auto è di 14.000 euro, ma grazie all'incentivo statale praticamente lui non ne sborsa più di 10.000. Beh, è così, se l'appunto, perché adesso io non ho le tabelle sotto mano, rientra nei parametri, sì. Quali altri parametri devono esserci, oltre al fatto le emissioni, adesso io non ho sotto mano le emissioni, chiaro, dell'appunto, quindi se però è nuova, sarà regolare. È nuova, dice Antonio, quindi Antonio poi ci faccia sapere se invece magari, che ne so, il concessionario le tira fuori qualche cosa che non va. Allora, che cosa si deve fare Pavan Bernacchi? Nel caso di Antonio, lui ha individuato l'auto che gli serve, il suo concessionario di fiducia, praticamente come fa ad ottenere... In che punto della richiesta dell'incentivo il procedimento può andare storto? No, il procedimento è molto semplice. Allora, solo un chiarimento. Prima, quando dicevamo per le auto aziendali, vetture con più di 10 anni, non è che c'è un costo aggiuntivo, è che le partite IVA... No, non si possono permettere adesso fuori magari... No, non hanno nel loro parco auto una vettura con più di 10 anni, perché l'ammortizzano molto prima. Per cui manca proprio una delle chiavi d'accesso, certo, per poter comprare la vettura nuova, solo per chiarire bene. Anche l'avessero, magari adesso non riescono ad avere a disposizione altri 15.000 euro per comprarsi l'auto nuova, anche se l'incentivo è interessante. Questo è a prescindere, no? Certo. Voglio dire. Allora, per avere il contributo è molto semplice: dal 6 maggio si va presso i concessionari di auto di tutti i brand commercializzati in Italia. E in tempo reale, noi siamo registrati nel sito del Ministero, in tempo reale sappiamo dire al cliente se viene opzionato per lui il contributo, quindi lo sappiamo subito, immediatamente. E un'altra cosa importante che deve sapere il cliente è che la vettura, da quando è opzionata, quindi da quando viene fatto il contratto, deve essere targata entro 90 giorni. e se non viene targato, quindi se la vettura deve arrivare, ecco, subisce dei ritardi o comunque non si è sicuri sull'arrivo, fate molto attenzione perché si perde completamente. Tra l'altro, in quale caso, secondo lei, Presidente, si può correre il rischio di non vedersi arrivare l'auto in questi 90 giorni, nel caso in cui si scelga un modello particolarmente stravagante? Non so, mi dica. Sì, allora, per dare... ci sono tanti marchi commercializzati, tanti arrivano da lontano anche con dei trasporti, c'è un problema di tempi tecnici anche per portarli e per le omologazioni e quant'altro, no? Quindi, però il concessionario lo sa, quindi se il concessionario fa il contratto deve essere sicuro che la vettura arrivi. Ecco, comunque dico anche ai clienti, sinceratevi che questo accada, no? Perché poi si perde il contributo. Che poi non si dica che non l'avevamo detto. Quindi, ecco, prima cosa questa, quindi si sa in tempo reale se si può sottoscrivere, chiamiamola così come lei l'ha definita, l'opzione per questo incentivo. Esatto, esattamente. E tra l'altro, e quindi, al cliente gli viene riconosciuto subito, poi, ecco, al concessionario è vero. Ecco, questa è una cosa importante, cioè il cliente è sgravato da ogni tipo di burocrazia perché fa tutto quanto al concessionario. E siamo molto, molto felici. Ah, ecco, infatti le volevo chiedere, non è che anche un po' questo un motivo di disappunto? No, siamo molto felici. Tenga presente che i denari, quasi, non so dirle proprio in che percentuale, però molti dei contributi che abbiamo già dato ai clienti l'anno scorso noi non li abbiamo ancora visti dallo Stato, ecco, quindi non ci hanno ancora pagato. Però Ma la dica bene questa cosa, perché oggi facciamo una bella agenzia con Marco Lombardo e quindi magari poi anche il Ministero che venga, cioè se mette sul piatto tutti questi soldi, metà ne vanno sempre lì persi perché la pubblica azienda non riesco ad accedere, e voi concessionari siete arrabbiati perché oltre a tutta la procedura di cui vi dovete imbarcare, e poi lei mi sta dicendo che i concessionari non si sono visti riconoscere questi incentivi molti, che loro adesso come ho premesso prima non so dirle in che percentuale, però molti nostri associati ci hanno segnalato che non hanno ancora avuto la liquidazione di questi denari. Però voglio dire, per i volumi che spiegavo prima sono veramente due spiccioli, per cui anche se ritardano di 2, 3 mesi, 4 mesi non ci crea nessun problema. No, insomma, però l'importante è che arrivino, ecco. Sì, arriva. Però già è passato un anno, quindi se molti suoi associati non hanno ancora questi soldi, mi rendo conto anche del fatto. Ma noi abbiamo pazienza, non è un problema. l'auto italiana ce l'ha da un bel po'. Noi paghiamo subito le tasse e poi quando dobbiamo avere i soldi bisogna armarsi di pazienza. Tra l'altro, invece, tra le altre contestazioni mosse dagli ascoltatori, allora c'è chi chiede se questi 90 giorni sono lavorativi, e adesso lo spiegheremo. Altri, e adesso sentiremo anche un ascoltatore che ha proprio una domanda specifica su questo punto, che ci chiedono se questi contributi si sommano anche agli incentivi che molte regioni danno. Daniele da Ferrara fa questo bel commento, che è anche un po' condivisibile, però: è mai possibile che lo Stato con le mie tasse debba dare incentivi per comprare auto tedesche? Non possiamo mica comprarci tutte Fiat. Daniele, non so, direttore di Quattro Ruote, direttore Pellegrini, che pensa di questa... Non capisco il riferimento alle auto tedesche, francamente, però. Poteva anche citarne di un'altra nazionalità, non so. Ma in realtà c'è dentro questo elenco, che obiettivamente non è particolarmente lungo, dentro ci sono sia la Fiat che le auto tedesche, ci sono macchine francesi, ci sono macchine... E quindi siccome siamo liberi, esatto. In realtà non mi sembra. Una cosa fondamentale che bisogna dire è che questo il contributo può essere erogato soltanto e esclusivamente per veicoli nuovi da immatricolare. Sappiamo bene che i concessionari in questo momento sono pieni di delle cosiddette chilometri zero. Ecco, bravo. Che sono le macchine già immatricolate dal concessionario. In questo caso il bonus non vale. La macchina deve essere assolutamente nuova. Ecco, tra l'altro bisogna che quindi, come dire, chi è intenzionato a farsi l'auto nuova proprio in questi giorni deve fare anche una valutazione se magari la chilometro zero è più conveniente rispetto a quella che invece è ancora da immatricolare e che gli riconosce l'incentivo statale. Tra l'altro la chilometro zero, direttore Pellegrini, che, come dire, se la volessi acquistare, che vantaggio economico mi dà? Beh, sicuramente la macchina è già immatricolata, è già immatricolata dal concessionario, quindi di fatto dal punto di vista legale non è un'auto usata, però... è semplicemente targata la macchina, però è nuova, quindi sicuramente c'è uno sconto superiore, certo, rispetto alla macchina non ancora targata. Infatti. Quello che invece volevo chiedere al buon Pavan Bernacchi. Bravo, mi aiuti un po' a fare un po' di dibattito. No, abbiamo sentito prima che appunto il bonus, metà di questo viene anticipato dal concessionario e il resto viene dato. Questo significa però che il 100% del bonus è a carico comunque del Ministero. Anch'io sto leggendo nel frattempo le email che ci stanno arrivando sul sito di Quattro Ruote dai nostri lettori, sì. E giustamente iniziano a dire, ma io stamattina mi sono già precipitato dal concessionario a, a chiedere informazioni di questa cosa, e tutti i concessionari mi stanno rispondendo, ah no no, lo sconto sulla macchina non lo facciamo perché in questo caso il bonus va a comprare lo sconto. Ma non è così, vero, per una macchina? Presidente. Ma allora io leggo, no, tre righe, il contributo che spetta solo per i veicoli nuovi non precedentemente immatricolati è calcolato secondo la percentuale e il tetto di qui sopra, i 5.000, 4.000, 2.000 di cui dicevamo prima, e deve essere ripartito in parti uguali tra sconto del venditore e contributo statale. Quindi chiaro. Insomma, è chiaro. Forse è deve mandare un bel vademecum ai suoi associati, presidente. Magari qualcuno non ha ben chiaro il meccanismo, il che è anche comprensibile, perché non è che. No? Sì, guardi, le dico, le case automobilistiche, adesso stiamo raccogliendo tutto il materiale, stanno proprio facendo, come hanno fatto l'anno scorso, un vademecum per tutti i professionisti, con tutte le casistiche che possono accadere, le domande e le risposte e il modus operandi. Perfetto, allora adesso dobbiamo andare a sentire, ovviamente parlando di auto, sentiamo anche cosa sta accadendo. Sta per andare in onda il traffico. Certo, signora mia, andiamo immediatamente a sentire cosa succede in questa giornata di pioggia un po' ovunque, guidate con prudenza, ascoltate Cuore e Denari, sentiamo un po'. Cuore e Denari. Guardate che bagagliaio, ci stanno almeno tre cadaveri. Scherzavo, cercavo di strammatizzare la situazione. Bene, grazie, molto gentile. Aspetti, che automobile ha adesso? Ho uno Lexus 430 LS. Insomma, una Toyota. È una Lexus. Sì, Toyota, Lexus, stessa roba, giapponesi, no? Ricordiamoci per Harbour. Parliamo di cose serie. La volete comprare la macchina, sì o no? Beh, questo è Robert De Niro in Un boss sotto stress. Magari anche i concessionari d'auto in questo periodo alle prese con questo nuovo pacchetto di incentivi lo sono un po', d'altronde devono capire bene tutte le regole, accontentare i clienti, e senza dover andare in Giappone come ha fatto Robert De Niro, sappiamo che anche la produzione delle auto in Italia, la vendita delle auto in Italia è sempre come dire in affanno da qualche tempo a questa parte. Come vanno le immatricolazioni? In marzo non sono andate malissimo, ma magari facciamo una previsione. Visione, leggiamo la nostra sfera di cristallo. Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, stasera che dato sfornerà il Ministero dei Trasporti? Secondo me non ci sarà un significativo rialzo rispetto al mese scorso. Ricordiamo che a marzo del 2014 le immatricolazioni sono salite a spanne del 5%. Sì. Potrebbe sembrare un segnale positivo. E da un certo punto di vista, si è raschiato il barile. Esatto, da un certo punto di vista lo è, però ricordiamo che a contribuire a queste crescite del 5% stava soprattutto il canale noleggio, ovvero quelle le grandi flotte aziendali. Che ha fatto segnare addirittura un più 31%. Il canale privati invece è calato ulteriormente fra il 3,5% e il 4%, quindi il problema vero di questo mercato italiano, che è fermo completamente da due anni, e su questo credo che Paolo Bernacchi sa benissimo qual è la situazione, anche perché i suoi associati ne stanno soffrendo le maggiori conseguenze, è che il cliente privato non va più a comprare le macchine. Cioè, siamo ritornati da questo punto di vista alle vendite che ci esistevano in Italia a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, quando in Italia si vendevano le 500. Bene, durevole, che si rimanda naturalmente, magari in questo periodo, grazie ad incentivi di altro tipo, che sono stati quelli legati per esempio alle ristrutturazioni. Diciamo che l'investimento che molte famiglie hanno fatto è stato di un altro tipo, perché quelli vanno veramente alla grande, questi invece magari per un altro tipo di investimento familiare si pensano un po' di più. Detto questo, Pavan Bernacchi, adesso se vuole le chiedo anche un commento sul tema generale del mercato, poi ritornerei al tema degli incentivi che partono martedì prossimo per spiegare ai nostri ascoltatori cosa devono fare, come presentarsi in regola dal proprio concessionario per poter avere appunto questa opzione, come l'abbiamo definita. Sul mercato, presidente? Ma sul mercato ognuno poi vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, no? Allora, se noi prendiamo il 2007, che non è lontanissimo, abbiamo perso oltre il 50% del mercato. Sì. Se noi prendiamo la media degli ultimi 5 anni, che secondo me è più equilibrato come dato, abbiamo perso il 35% del mercato, cioè mancano all'appello circa 600.000 immatricolazioni l'anno. che non sono una banalità, perché il primo, paradossalmente il primo danneggiato è lo Stato, che per effetto di questo calo di fatturati introita 3 miliardi di euro in meno tra IVA e bollo. E quindi, e anche accise sui carburanti, mettiamoci pure quelle. Sì, anche accise sui carburanti, e dove noi siamo, mi pare, dopo posso essere smentito, comunque i primi posti nel mondo per la tassazione dello Stato. Pesa per oltre il 60%, se non mi ricordo male. Credo che siamo al terzo posto, comunque vabbè. E quindi noi abbiamo un mercato che sta crescendo leggermente nel 2014, mediamente del 6%, ma anche se venisse confermato questo trend, ci riporterebbe esattamente all'anno 2012 1.400.000 vetture, quindi dal punto di vista nostro un disastro, perché il nostro è un mercato che ha un parco circolante di circa 34 milioni di veicoli, poi anche lì sul parco bisogna vedere che criteri si prendono, e quindi dobbiamo assolutamente rivitalizzare il mercato anche per svecchiare il circolante, come diceva il direttore di Quattro Ruote giustamente, e avere una migliore qualità dell'aria e vetture più sicure sulla strada. Dobbiamo rinfrescare il mercato del lavoro più che altro, Presidente, perché se tutti hanno un buon posto di lavoro, un lavoro sicuro, allora magari possono permettersi anche di fare questo investimento per la famiglia, cambiare l'auto, e quindi chiaramente i benefici poi si estendono. Però questo è un impegno del governo sul quale si sta naturalmente lavorando molto, e vedremo quali altre iniziative concrete per l'impresa ci saranno prossimamente. Detto questo, Alessandro D'Ancona è appena stato da un concessionario. Che cosa le hanno detto, Alessandro, che ci chiama proprio dalla mia città? Buongiorno. Buongiorno. Io sono stato, sì, fresco di concessionario. Freschissimo. Mi hanno spiegato molto bene come funziona il contributo, quindi che c'è una parte, diciamo, di competenza del governo, dello Stato, e una parte invece di contributo del concessionario. Però mi hanno detto questo, che sostanzialmente loro non sono in grado di garantire che poi, una volta firmato il contratto, ci possa essere il contributo dello Stato, nel senso che loro il giorno 6 si collegheranno al portale per poter ottenere questi incentivi, e se non riusciranno a collegarsi e quindi a mettersi, diciamo, in coda, sostanzialmente il contratto che io ho firmato però non beneficerà di quello sconto della parte del governo. Allora, quindi chi firma lunedì sostanzialmente è con il punto interrogativo, che non sa se poi beneficerà della parte di... Grazie Alessandro, un po' l'abbiamo sollevata questa questione, questo famoso click day che viene denominato così per tante, anche per tante altre operazioni che danno la possibilità alle famiglie, ai contribuenti, alle aziende di accedere appunto ad incentivi statali, denominiamolo così anche questo giorno che riguarderà l'accesso agli incentivi per l'acquisto di auto ecologiche. Presidente Pavan Bernacchi, diciamo che il concessionario è stato realistico, no? Nei confronti di questo suo cliente. No, è stato molto corretto, perché succede proprio questo: noi il 6 raccogliamo il contratto, poi ci colleghiamo con il sito del Ministero, che naturalmente poi ci sono dei picchi di utilizzo, quindi non è detto che si riesca a collegarsi o non collegarsi. No, ci sarà sicuramente l'intasamento martedì mattina. Nel momento in cui il concessionario che è lì, che prova, riesce a opzionare il contributo, può girarlo al cliente. Quindi sono contratti, diciamo, condizionati, quindi il cliente potrebbe dire: io la compro solo se c'è il contributo, oppure compro a prescindere perché mi serve, meglio se c'è il contributo. Ecco, senta, no, tra l'altro questa operazione di collegamento, di collegarsi appunto al sito del Ministero dello Sviluppo Economico per verificare se per quel cliente c'è la possibilità di avere questi incentivi, la si fa contestualmente, nel senso che il concessionario si prende tutti i contratti possibili del giorno e poi la sera si mette lì a verificare se può garantire loro gli incentivi, oppure lo si fa contestualmente alla visita del cliente, tutta questa operazione? Allora, dipende sempre. Allora, quello che cerchiamo di fare noi è di farlo in tempo reale, quindi raccogliamo il contratto e vediamo nel sito del Ministero. Però quello che è capitato anche l'anno scorso è che alcuni clienti lo hanno saputo dopo, perché non era possibile dirglielo in tempo reale. Dipende sempre dalle richieste che abbiamo in quel giorno e da tante cose, insomma. Però il nostro obiettivo sarebbe quello di dire subito al cliente se ha diritto o meno al contributo. Certo, giustamente, perché non perde tempo nessuno in questo modo. 800 24 00 24, siete in tanti davvero al telefono. Allora, ci sono Giuseppe dalla provincia di Milano, Alessio da Roma, su Facebook che Giorgio ci scrive: ho un'auto a benzina di 5 anni, posso usufruire come privato degli incentivi passando al metano. Direttore Pellegrini, in questo caso, appunto, per i privati non è prevista la rottamazione, per cui lui può fare quello che vuole, nel senso che può comprare l'auto nuova a metano, avere l'incentivo, ma non è un'operazione legata al fatto che vada a rottamare quella vecchia. No, soltanto riguarda le amministrazioni. Volevo soltanto dire una piccola una nota di cronaca. Sì. L'anno scorso, che erano molto meno i soldi a disposizione, questo incentivo è stato bruciato in poche ore per quanto riguarda i privati, quindi è proprio una corsa contro il tempo. Esatto, come tutti i click day su tante cose. Allora, io sentirei adesso, facciamo una cosa, siccome mi interessa molto la domanda di Giuseppe dalla provincia di Milano, perché la stanno facendo molti ascoltatori anche al 349-238-6666, direi, Marco, se sei d'accordo, di rinviarlo a dopo le 12. Giuseppe, ci aspetta per un po'? Okay. Grazie molte, la sentiamo dopo il giornale radio. Intanto sentiamo immediatamente Alessio da Roma e poi naturalmente dopo le informazioni dalla redazione chiediamo a Gianluca Pellegrini e Filippo Pavan Bernacchi di rimanere con noi per la seconda parte del programma. Ci raggiungerà anche un'altra ospite. Intanto Alessio, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sarei interessato all'acquisto di un'auto diesel, un Euro 6, che ha delle emissioni di CO2 di 88 grammi al chilometro. E volevo sapere se potrei rientrare nell'utilizzo degli incentivi. Tempo permettendo, perché l'operazione, come lei ha avuto modo di sentire, non è che martedì sarà semplicissima. Presidente Pavan Bernacchi, Alessio può comprare quest'auto utilizzando, potenzialmente mirando agli incentivi? Ma allora, per quello che risulta a noi, l'incentivo è dedicato alle elettriche, le ibride e GPL metano. Mm-hmm. Ecco, quindi se è una di queste caratteristiche, di queste categorie, sì, se no. Mm-hmm. Allora è il diesel con emissioni 88 grammi. A meno grammi. Che non sia una vettura aziendale, allora basta che sia sotto i 120 grammi al chilometro. Perfetto. Di CO2. Cuore e denari. Se per caso ti lasci sfuggire con gli amici che vuoi cambiare la macchina, tutti cominciano a dirti subito: ah, non vorrai mica comprarla nuova, non conviene, ma sei matto, prenditi un bel usato sicuro. Sì, usato sicuro, l'unica cosa che è sicura è che l'hanno usato, però non sai come, e sono tutti degli affari a sentire il venditore. Non c'è mai uno che ha comprato la macchina normale come noi, l'ha usata un po' e poi l'ha rivenduta, no. Cioè, guardi, questa era di un signore che l'ha comprata per la moglie, ma la moglie non l'ha mai usata perché non le piaceva il colore, capito? Oppure questa è di un ingegnere che non è neanche venuto a ritirarla perché è partito per la Papuasia per un lavoro urgente e non è mai più tornato. E quindi tu dovresti fidarti di queste storie incredibili, e naturalmente non ti fidi, ma non manca mai la perla. C'è la macchina che era di un pensionato che l'ha sempre tenuta nel box. Io invece le ho sfinite tutte, quelle che ho avuto nel corso della mia vita, e probabilmente succederà anche con quelle che avrò. Allora, stamattina stiamo parlando di auto, di acquistare quella nuova, naturalmente parliamo di auto nuova definita ecologica, basso impatto ambientale, ci sono degli incentivi molto sostanziosi da parte dello Stato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, però anche molte contestazioni sulle modalità con cui si potrà arrivare ad ottenere questi incentivi e sul fatto che metà di tutto il pacchetto che lo Stato mette a disposizione va teoricamente a favore delle imprese e della pubblica amministrazione, che probabilmente le lasceranno lì dove sono in questo momento, e tutti quelli che invece sono a disposizione dei privati verranno bruciati tutti in una giornata, cioè martedì prossimo, quando l'operazione incentivi prende il via. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per interagire con noi, con Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, con Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, che tra poco deve lasciarci. Nel frattempo ci ha raggiunto un'altra ospite che tra poco vi presento. L'acquisto dell'auto usata, presidente Pavan Bernacchi, quanto è oggi gettonata da parte degli italiani? Allora, prima di rispondere, una breve precisazione: ho detto una inesattezza, prima voglio correggermi. Quando ho detto e io non me ne sono accorta, non ho fatto bene il mio lavoro. Ma. No, è colpa mia. Ho detto che lo Stato non ci ha ancora pagato. Non potrebbe non essere vero, nel senso che il credito d'imposta è della casa automobilistica, per cui alcune case automobilistiche non ci hanno ancora dato il denaro, quindi non sappiamo se è un ritardo dello Stato o della casa automobilistica. Benissimo. Ecco, però ci tenevo a precisarlo. Ha fatto bene, altrimenti giustamente ci chiama il ministro, certo, Guidi e dice: ma insomma, già non ho neanche preso questo incarico da poche settimane che già mi bastonate. Allora, tra l'altro, presidente, gli agenti di commercio, ci scrive un ascoltatore, rientrano tra i privati o le aziende? È possibile che un agente di commercio prenda un'auto diesel a basse emissioni? Dunque, è una partita IVA, quindi basta che abbia una vettura da rottamare con più di 10 anni, ecco, e sicuramente non ce l'avrà, e che acquisti una vettura che inquini meno di 120 grammi per chilometro. Eccolo là. Gianfranco chiede: i concessionari, nonostante la crisi, non abbassano i prezzi dell'usato. Siccome volevo un po' esplorare questo mondo, presidente, è così? Allora, il mondo dell'usato, cioè l'usato, è sempre stato anticiclico rispetto al nuovo, cioè quando si vende molto il nuovo si vende meno l'usato e viceversa. Abbiamo visto che in questa crisi del nuovo l'usato invece sta tenendo i suoi volumi di vendita. Tra le altre cose, vendendo meno nuovo si ha nel tempo meno usato, no? E quindi i prezzi salgono, no, è come ovvio. Si suol dire, è il cane che si morde la coda, esatto, non so quindi se i prezzi dell'usato salgono perché c'è la domanda, però c'è meno offerta. Ecco, e ho sentito anche prima quel divertentissimo comico in mezzo, no? Gioele Dix, sì, esatto, Gioele Dix, che io apprezzo molto. Ecco, mi dà anche la stura per dire: attenzione ai consumatori che pensano che tutti quelli che vendono automobili siano concessionari. I concessionari sono gli unici che rappresentano le case automobilistiche sul territorio ufficialmente, gli altri sono venditori generici. Allora, quando uno va da un concessionario, quindi vede fuori le insegne di una marca automobilistica, nel sito della casa automobilistica è presente questa ente di vendita come concessionario, allora lì si hanno determinate garanzie, soprattutto anche per l'usato, che le vetture non siano state incidentate, che i chilometri siano originali, che si abbia la garanzia legale di conformità o la garanzia convenzionale ulteriore. Ecco, quindi, e comunque se c'è qualcosa che non va bene, il cliente può sempre scrivere alla casa automobilistica e avere soddisfazione. Ecco, quindi è molto importante, perché i concessionari sono 2.800, i venditori di automobili sono 25.000. Le faccio sentire subito una testimonianza di Angelo da Trento, poi ho davvero tanti ascoltatori, la dottoressa Anna Guglielmi, che è la nostra prossima ospite, che fra poco vi presento, Gianluca Pellegrini, a cui voglio far fare un'ultima battuta prima di salutarlo. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. A lei, agli ospiti e agli ascoltatori. Grazie. Volevo dare la mia testimonianza, forse un po' fuori dal coro rispetto a quello che si è sentito. In realtà io mi sono trovato sempre ottimamente con le auto usate. È anche vero che ho una passione, per cui insomma vado un po', sono un po' pignolo, però in realtà un po' come tutti gli uomini con l'auto, Angelo, lei non è che sia una, come dire, una voce fuori dal coro, anzi tutt'altro, quindi molto attento, per cui con l'auto usata che in questo modo sì, diciamo che sono riuscito, oltre a risparmiare, anche a trovare delle auto che erano veramente simili a quelle descritte da Gioele Dix, perché ho trovato veramente quello che ha venduto la macchina del parente che non poteva più guidare, che la macchina taglia andata, no? Cioè quella che ha il libretto ufficiale del concessionario con le manutenzioni certificate. Bisogna stare attenti, insomma, Angelo, il messaggio che lei ci passa è quello: se vogliamo risparmiare, chiaramente dobbiamo fare un po' più di attenzione. Magari ci scriva Angelo e ci dia un po' il suo personale vademecum, lo metteremo su Facebook e lo condivideremo anche con gli altri ascoltatori che si vogliono approcciare al mercato dell'usato, ma magari non colgono tutti gli aspetti ai quali prestare la dovuta attenzione. Se lo dovessi fare io un acquisto di questo tipo, apriti cielo, chissà che cosa mi porterei a casa. Allora, Giuseppe dalla provincia di Milano mette l'accento su una questione sollevata da tanti ascoltatori al 349-238-6666 che voglio commentare con Gianluca Pellegrini prima di salutarlo. Giuseppe, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Eccolo qua. Dunque, io abito in regione Lombardia, no? E noi come al solito i lombardi siamo i più fessi. Il buon Maroni ci ha detto che dall'anno 2016 dobbiamo rottamare gli Euro 3. Sì. Tra l'altro io ho una macchina tedesca di cui non dico la marca, ma che è efficientissima, però mi troverò costretto a rottamarla. A questo punto la domanda era, volevo conferma se l'incentivo della regione Lombardia sarà effettivamente alla data del 2016, o se ne esiste già qualcosa di attuale che si può aggiungere all'incentivo statale. Giuseppe, annulla l'altro. Allora, penso, speriamo di poterle dare le informazioni corrette, nel caso in cui non lo potessimo fare, appunto ci informeremo magari nel pomeriggio. In ogni caso, Pellegrini, allora intanto lei ne sa niente di questi incentivi per rottamare gli Euro 3 nel 2016 che la Regione Lombardia intende mettere sul piatto? Ma in Italia è già difficile capire quello che succederà martedì della prossima settimana. Allora, è vero che il Presidente della Regione Lombardia ha espresso questa intenzione. Ma facciamo quelli che sanno almeno cosa succede qua attorno a noi, ecco. Esatto. Cioè, stiamo dicendo che gli incentivi per le auto ecologiche, quindi non c'entra assolutamente a questo punto l'Euro 3 da chiamare o nient'altro del genere. Giuseppe ha messo dentro tutto. Si esauriranno nelle ore di lunedì, entro la giornata di lunedì, molto probabilmente. Magari, siccome quest'anno sono di più rispetto all'anno scorso, magari arriviamo anche addirittura fino a martedì pomeriggio, però sicuramente non possiamo immaginare quello che accadrà da due anni a questa parte, insomma. Detto questo, certo. se questo incentivo ci fosse stato, cioè nel senso che ci sono anche in altre regioni incentivi locali, si possono sommare a quelli dello Stato? Si dovrebbero poter sommare. Certo. Pavan Bernacchi ce lo può confermare? Beh, in passato è accaduto, è stato così, che si potessero sommare sempre. Praticamente si portano a casa le auto a prezzi stracciatissimi. Guardi, mi ricordo un caso emblematico di un veicolo commerciale di cui non faccio il nome, a metano, di cui non dico la marca, che si portava a casa con l'ultima rottamazione a qualcosa tipo a 4.000 euro, 3.800 euro. Come diceva anche l'ascoltatore di prima, Angelo, bisogna essere attenti anche a questo, a quando effettivamente queste operazioni si cumulano e bisogna cogliere l'attimo fuggente. Proprio diciamolo così. Allora Pellegrini, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Spero che anche per quattro ruote abbia trovato appunto spunti interessanti nel nostro programma. La crisi non ha fermato l'avanzata dello scambio di veicoli usati, lo dicevamo poco fa, tra privati. Nel 2013 questo mercato ha rappresentato il 60% del totale dei passaggi di proprietà, un modo che può far risparmiare sì qualche denaro, ma bisogna stare attenti a non incappare anche in disavventure, compravendite magari non proprio azzeccate. Ecco perché diventa importante cercare di instaurare con l'altra persona un rapporto di fiducia. Non è facile perché abbiamo poco tempo, ma una mano per inquadrare l'altra persona ce la dà il linguaggio non verbale. È la postura volontaria, cioè io comunico qualcosa di me volontariamente attraverso il corpo. C'è poi la postura involontaria, che secondo me è anche più interessante, e che serve a capire le reali intenzioni dell'altro nei miei confronti a sua insaputa. Dice Vaslavic, io parlo a lui, che mi ascolta apparentemente benevolo, ma con le braccia conserte, pare sia sintomo di diffidenza, chiusura, sospetto. Si dice sempre che la prima impressione è quella che conta e a volte basta un'occhiata per capire se la persona che abbiamo davanti ci piace o non ci piace e se con questa persona potremmo concludere o meno un affare, come nel nostro caso comprare una macchina. In linea con noi la dottoressa Anna Guglielmi, esperta di linguaggio non verbale e autrice de Il linguaggio segreto del corpo e del volto. Buongiorno e benvenuta, dottoressa. Buongiorno a voi. Lei non sa quanto io stia attenta alle persone che mi parlano e che incrociano le braccia, perché veramente questa ormai è, come dire, tra tutti quelli che conosciamo di segnali del corpo, forse è quello con il quale abbiamo un po' più di confidenza, quello che conosciamo di più, poi gli altri non li intercettiamo molto facilmente, noi comuni mortali che non studiamo questa disciplina, chiamiamola così, no? Che dice? Il giudizio che noi ci facciamo dell'altra persona può essere formulato anche sulla base di una sola occhiata in tempi brevissimi, accade quasi in modo automatico, che se ne sia consapevoli o meno, tanto che secondo diversi studiosi di tutto questo il 60-70% delle attività comunicative viene realizzato senza parole. Dottoressa Guglielmi. È proprio così. Se si considera che durante una conversazione il messaggio viene trasmesso, pensate, solo il 7% dalle parole, il restante, cioè il 38%, è dato dal tono della voce e addirittura per il 55% la nostra comunicazione avviene il linguaggio del corpo. Questo perché? Perché il nostro corpo non mente. Il nostro corpo è in diretto contatto con le emozioni, con ciò che stiamo provando o stiamo pensando. E il corpo segnala allora con dei gesti o delle espressioni del volto quanto noi realmente stiamo pensando. La parola invece, come diceva a suo tempo Voltaire, è stata data all'uomo proprio per nascondere il suo pensiero. Senta, dottoressa Guglielmi, quando io sono di cattivo umore, praticamente quello che provo mi lampeggia sulla fronte. Come posso fare per tenerlo sotto controllo? Oppure posso lasciare andare a briglie sciolte il mio sentimento? Può lasciarlo andare perché il suo cattivo umore si vedrebbe. Se lei cercasse di nasconderlo, apparirebbe con un micro gesto nel volto. E chi sa leggere lo capirebbe. Certo, i gesti del corpo, questo per arrivare a dire che possono raccontare molto di noi. noi ascoltiamo spesso solamente le parole, e quindi ci dia un po' qualche suggerimento per poter anche interpretare i gesti del corpo della persona con la quale siamo abituati ad interagire, oppure che conosciamo magari per la prima volta e vogliamo saperne qualcosa di più. Diciamo, lei ha detto una cosa importante: noi non siamo più abituati ad ascoltare le parole. E se noi pensiamo che da bambini eravamo ancora in contatto con la nostra parte naturale e da bambini istintivamente sapevamo distinguere i gesti di accettazione, di apertura da quelli di rifiuto oppure di chiusura, e restavamo veramente spiazzati se un gesto di un adulto contraddiceva le parole che ci stava dicendo. E poi crescendo ci hanno insegnato che le parole sono l'unica espressione alla quale si deve credere. E così ci siamo dimenticati di prestare attenzione a quanto il corpo ci sta segnalando. Cioè, se pensiamo che noi sappiamo che se il nostro gatto scodinzola nervoso, subito noi comprendiamo che vuole essere lasciato in pace. Però se un nostro amico dondola nervoso un piede, però con le parole ci dice no, va tutto bene, noi crediamo solo alle sue parole. Sta mentendo invece, e quindi magari, anzi, sta probabilmente anche trasmettendo un segnale, una richiesta di aiuto, perché potrebbe essere anche questo, no? Senta, dottoressa Guglielmi, Chiara da Trento ci scrive: ma invece lo sapete che io incrocio sempre le braccia, eppure mi sembra di essere una persona molto aperta, quindi quando questa abitudine di tenere le braccia incrociate si scontra, fra un po' a pugni, dottoressa Guglielmi, con il nostro vero, come dire, essere, è possibile che si possa essere, come dire, molto aperti, come dice Chiara, ma avere sempre questo invece atteggiamento di chiusura che viene identificato con la chiusura delle braccia? Ma chiuderle è molto importante questa domanda, ed è necessario fare le dovute distinzioni. Io posso incrociare le braccia anche perché ho freddo o do mal di stomaco, quindi non si può dire chiusura, braccia conserte uguale chiusura. Però tendenzialmente una persona che tende a chiudere le braccia, io sono seduta ora mentre vi parlo con le gambe accavallate, sì, in chiusura, e io mi rendo conto che le tengo normalmente così. Anch'io, dottoressa Guglielmi, quindi lei non è che sta manifestando una chiusura nei confronti della mia intervista. No, la chiusura forse potremmo dire riservo, forse io, come la nostra persona che ha telefonato, ama molto parlare e comunicare ciò che lei ha deciso di comunicare. Ok? Certo. È diverso. La chiusura è importante quando si parla, osservare se una persona ci ascolta, mani aperte, tranquille. Noi continuiamo a parlare, a un certo punto la persona chiude le braccia. Allora, cos'è che può darsi che non apprende le distanze dall'ultima frase che stiamo dicendo? O può darsi anche che quella frase gli ha fatto evocare un ricordo, una persona, certo, per cui si rinchiude per pensare a quella storia. Quindi non basta un gesto, è come dire, riflettiamoci, io capisco un testo di un libro da una parola. Oppure siamo magari tanto noiosi e quella persona ci sta dicendo: guarda, stringi, perché tutto quello che mi stai raccontando magari non mi interessa troppo. Ma magari tutto questo, dottoressa, lo approfondiremo in un'altra puntata, perché è tutto molto bello. Noi l'abbiamo chiamata per invece dirci un po' che cosa dobbiamo guardare del linguaggio, del corpo, del concessionario in cui andiamo per acquistare l'auto nuova, qualora volessimo approfittare di questi incentivi dei quali abbiamo parlato per tutta la trasmissione. 30 secondi di tempo per darci un suggerimento pratico su cosa deve cadere l'occhio. Allora, diciamo, per fare velocissimi, diciamo, dividiamo i 5 punti importanti. Prima cosa, fidiamoci soprattutto della prima impressione che riceviamo quando incontriamo l'altra persona. Perché pochi istanti dopo la persona ci sorriderà, ci saluterà, iniziamo a parlare ed è sicuro che ci saremo dimenticati della prima persona, della prima impressione. Se distinto quella persona non ci piace, facciamo attenzione, ricordiamolo, perché se non ci piace forse il nostro corpo ha percepito dei segnali non positivi. Due. Le devo chiedere di sintetizzare perché chiudiamo fra un minuto, sì, dottoressa. Se una persona è sincera, lo sarà sciolta nei movimenti, quindi la sua stretta di mano sarà ferma, solida e ci guarderà negli occhi. Se invece ci dà una mano molliccia e sfuggente, questo non è il segno che la persona diciamo, ha qualcosa da nascondere. Se le mani, infine, le mani dicevamo devono essere aperte, se le mani non sono aperte, non sono libere, non esprimono, ma sono chiuse in tasca o appoggiate alla vettura o addirittura hanno questo gesto che abbiamo tutti presente, che si strofinano lentamente l'una con l'altra, beh, anche questo è un segnale che ci deve mettere, diciamo, in guardia. Dottoressa Guglielmi, purtroppo devo salutarla perché devo chiudere fra 5 secondi. Sono certa che Filippo Pavan Bernacchi ha una stretta di mano solida, sicura e molto espressiva. Grazie anche a lei di essere stato con noi. Grazie. Buona giornata. Io vi ricordo Cuore, Denari e Vitali. Eccezionalmente l'abbiamo già lanciato mercoledì, gli incipit della prossima settimana. Li trovate sul sito di Radio 24. Per completare il racconto di Denari dovete mettere la parola scontrino. Per l'incipit di Cuore completate il racconto con la parola caffè. Grazie a tutti. A lunedì.